Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Come è possibile qualificare un passeggero vestito in maniera totalmente impeccabile, quasi anonima, con la giacca, camicia, un trolley anonimo di quelli blu, un volto tutto sommato che può passare indifferente, ma con un civettuolo monile al collo? L'ho visto con un laccetto di cuoio, sembrava, non so, forse un guizzante pesciolino di terracotta, o forse di plastica, o forse di metallo, che mi sembrava strano, fuori posto addosso un uomo che sembrava fare tutt'altro che portare un guizzante pesciolino al collo. Beh, io su quel pesciolino e su quel monile alla fine non ho potuto fare a meno che iniziare casualmente una conversazione. Mi pare che sia un problema di conflitto generazionale con tuo padre. Sì, in realtà nasce da un presupposto occasionale. Improbabilmente mi sono innamorato di lavorare, insomma, di una piccola passione, ecco, lavorare la creta, produrre piccoli oggetti, monili piuttosto che gingilli, e il numero da 10 a 20 a 1000, andando moltiplicandosi, mi ha messo in condizione di avere proprio un out da parte di mio padre. Dice: o tu o loro. Ma tu avevi cominciato a fare da giovane un'attività artigianale in famiglia, qual era il problema? No, assolutamente, per una passione, così proprio, ripeto, improbabilmente nata dal caso. Avendo a disposizione un forno per la cottura della terracotta, ho cominciato a produrre questi oggetti, anche, devo dire, piuttosto curiosi. Ma avevano un mercato, li potevi vendere? Ma cosa? Ma accidenti, io quando sono stato messo poi all'uscio, ovviamente con l'invito, ma vai a venderli, mai occasione più gustosa. Allora, per quanto sia nel costume di chi conosce il viaggio, facendo tesoro di un paio di mutande, un paio di calzini e qualche maglietta, soprattutto sotto il peso di un patrimonio, di lavoro, di piacere, mi sono imbarcato in un'avventura, ho percorso diverse tappe lungo la costa adriatica e ti dico con una grandissima soddisfazione, oggi lo dico, spero che i funzionari non mi sentano, anche un po' frodando il fisco, perché vendendo le questioni quasi amichevolmente. Vabbè, è un ambulante, l'ambulante non è che deve pagare le tasse, come andare a vendere sulla spiaggia. Mi spiego cos'erano questi oggetti, però mica ho capito bene. Allora, pesci, conchiglie piuttosto che coralli. Ah, facevi degli oggettini di ceramica che potevano essere messi dentro gli acquari, che ne so, per farci andare i pesciolini rossi, cose del genere. No, i pesciolini in realtà sono stati gli uomini, e i pesci che ho riprodotto, o le conchiglie, sono state indossate, ma questioni molto banali, legate da una corda molto semplice. Allora, sei andato in giro per le spiagge italiane, cosa avevi? Una sorta di scatolone al collo? Come te li mettevi? Te li mettevi te? Come facevi a vendere? No, erano dei macci già anche preallestiti che tenevo in mano proprio per necessità logistica, non avevo spazi. Poi recuperando, sai, quelle cassette di legno che di solito occupano, ormai evaporate, delle bottiglie di vino natalizio. Sì, ok, improbabili. Chi non ce l'ha? Dentro avevo tutta la mia mercanzia e tutta l'attrezzatura, una forbicina, della corda e tutti questi oggettini che ancora conservo in parte. Ma che anni erano? Fammi capire. Ma qui siamo negli anni 90, io ero ventenne, ma soprattutto con la mia percezione improbabile del tempo mi sono trovato a vivere in una dimensione che mi ha visto veramente coinvolto da amicizie, amori improbabili scoppiati su pullman, accolto in case come fossi fratello o cugino, poi trovandomi a dormire in stazione ma ti dirò una cosa molto strana, partecipando soprattutto amore. Dico una cosa, ho scoperto che attraverso un feticcio, un oggetto qualsiasi, potesse veramente allacciarsi con quel nodo che io praticavo sul collo oppure attorno al polso di una persona, un legame vero di amicizia e di comprensione. Comprensione io... E tu pensa che la gente vende dei braccialetti che sono veramente una strisciolina di cotone, dici ci faccio 3 nodi, il braccialetto brasiliano porta fortuna, tu almeno vendi qualcosa che bene male, assomigliava più a un oggetto. No? Sì, è vero. Ma quindi tu hai fatto, cosa hai fatto? Eri una specie di ambulante senza patria, senza famiglia per questo periodo? Senza patria, senza famiglia, ma ti dirò, un po' scroccando anche amichevolmente, il mio primo appuntamento è stato all'incirca, uno dei più importanti, a Rigione, dove sapevo essere mia sorella in un hotel per quella settimana. Ma sempre in famiglia comunque restavi, non è che andavi tanto lontano? No, ma solo in quell'occasione, perché oggettivamente, essendo una delle primissime notti dopo aver dormito in stazione, dico, finalmente una notte. È bussato alla sorella, Il finto appuntamento in hotel è valso che io mi insinuassi a insaputa del proprietario per più giorni, anche riservandomi la scelta del menù e presentandomi puntualmente a tavola con mia sorella. Cioè, diciamo, c'era un po' una casa occupata quella, più che un hotel, però di lì mi sono inerpicato in avventure. Ah, nessuno se n'è accorto? Mangiavi a scrocco in un hotel? Mangiavo a scrocco, amato, ben voluto, ho ricambiato l'ospitalità dormendo in letti non miei, occupati qualche volta da persone la mattina senza che fossero presenti la notte. Insomma, ti dico, una vita fintamente... Cioè, come la mattina quelli andano a letto, trovano te dentro il letto. Esatto. Vabbè, come facevi a entrare in camera? No, ma erano spesso aperte, ti dirò, è veramente un'occasione... Ah, ti infilavi nelle camere degli altri? Sì, ma con loro compiacimento, ovviamente, senza... Vabbè, avevi delle avventure amorose, allora? Beh, diciamo che sentimentalmente sono un po' vittima delle passioni, sicuramente il cuore è stato strapazzato, anzi consiglio sempre a tutti di far tesoro di quei momenti che arrivano in gioventù, ma non soltanto, per mettere in gioco quello strumento strano, ingestibile e veramente misterioso che è il cuore. Un attimo, ho sudato freddo, no? Ah, sì. Non sapevo quale strumento strano e ingestibile tu alludessi. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Qual è stato l'incontro, diciamo, più degno di memoria in questo periodo brado della tua vita? Guarda, io sono arrivato dandomi come limite di spazio in Puglia, permettendomi anche con un discreto portafoglio una vacanza lussuosa in un hotel dove ho trovato anche una fidanzata. Se non che ti dirò... L'hai trovata insieme, cioè insieme ai servizi dell'hotel c'era anche la fidanzata? Sì, ma lì mi ero permesso io la camera, ovvero davvero signore con una doccia degna. Però ti racconterò questo episodio stranissimo. E io faccio veramente riferimento al potere che anche abbiano gli oggetti, se impregnati magari di memoria, di storia, di affetto. Trovo anni dopo, mentre ero studente di diritto in Roma, io ho studiato diritto canonico, sono stato pendolare, ho viaggiato tantissimo come stiamo viaggiando tutti. Detto questo, quindi la tua vita passata, visto che la vita attuale è all'insegna della rettitudine e della regolarità, il tuo periodo, diciamo, irregolare sarà stato un po' più movimentato, spero, no? Sì, decisamente, sono scautistico, anzi ti dirò, questa volta nell'albergo pugliese, che è successo poi alla fine? No, lì è stata una vacanza, se vogliamo, di relax, ordinaria, ma ti dirò di un incontro molto particolare, quello del quale ti stavo mettendo prima qualche permessa. Ero, ripeto, anni dopo l'esperienza in stazione Termini, azzinato, composto, con giacca e cravatta, e vedo da lontano in questo enorme atrio un personaggio abbastanza improbabile, con dei cani, potremmo dire, cioè un panca bestia, una chitarra. E vedo che il personaggio pian piano vedo su incedere verso di me, io mi guardo attorno, non c'era nessuno, eppure i cani anche venivano, io molto preoccupato. Voleva te. Certo, con un mio grandissimo timore, il personaggio a pochi metri accelera e mi abbraccia con un sorriso cantando. Dico, ma questo è veramente strafatto. In realtà, credimi Gianluca, l'emozione vera è stata veder sfoderare da una maglietta malamente rammendata quell'oggettino che gli avevo regalato una notte dormendo in stazione a Riccione, e per me è stata la gratificazione più grande. Cioè ti ha restituito il tuo oggettino che gli avevi dato quella notte? Sì, perché abbiamo condiviso una notte di canti, queste sono cose ovviamente licenze che ci possono permettere, sì, tornato in gioventù, canti, confidenze, insomma. Io ho trovato veramente... E l'oggetto cos'era? Ti ricordi che cosa fosse l'oggetto? Cosa rappresentava? Sì, era un pesciolino con qualche gingillo, una sferetta, un qualcosina, tanto per argomentare, ecco, questo girocollo. E forse anche un braccialetto, sì, aveva anche un braccialetto. E questo pesce, in fin dei conti, un po' in questo grande mare, insomma, è venuto ancora a trovarmi... Ho toccato con mano però il calore di certi momenti, vivo veramente facendo tesoro di queste scintille che veramente mi danno senso. Beh, singolare, strano, poi vedi, questi oggetti quindi hanno caricati di una forza quasi magnetica, irraggiungibile. La persona, probabilmente una persona che aveva una vita difficile, particolare, con i cani, randagio così, però trovava indimenticabile quel pesciolino che aveva regalato quella notte di confidenze e te l'ha dimostrato. Poi hai continuato a fare questo artigianato che ti ha cambiato così tanto la vita? No, perché essendo vocato al cambiamento molto spesso mi sono imbattuto anche in altre gratificanti esperienze, qualcuna anche un po' meno, la musica piuttosto che qualche viaggio, le letture, il cinema. Ma tuo padre aveva avuto ragione allora a mandarti fuori di casa, quel giorno lontano alla fine, t'ha fatto crescere. Guarda, sì, ero già fuggito anche prima, fuggito ovviamente con il benestare di questi miei cari, però ha avuto ragione, io non mi sono fatto sfuggire l'occasione di riassaporare la vita. Ma hai avuto qualche cattiva amicizia, diciamo, visto che sembra che veramente hai sempre vissuto in un idillio, che anche trovi solo persone redente, qualche amico ti avrebbe portato in una cattiva strada, visto che la tua vita è stata tutta una ricerca di senso. Sì, è vero, c'è sempre il rischio di far compiere passi sbagliati. Devo dire che penso di aver avuto un ottimo angelo custode, insomma anche magari un pizzico di saggezza per evitare il peggio. Certo, non so se consiglierei a mio figlio di fare quel che ho fatto, perché poi di avventure ne ho vissute in giro un po' per il mondo, Centro America, Sud America. E cosa che hai vissuto? Dimmene una, sennò sembra che mi racconti solo di Riccione. Sei stato in Centro America? Sì, in Centro America è stato veramente il mio passo. Dove sei andato? Ma in un viaggio, dopo aver venduto quelli che erano i miei beni, un po' alla francescana, ho venduto i miei strumenti musicali, ho fatto il solito piccolo sacco con l'essenziale, e dall'oggi al domani, quasi a sorpresa, ci siamo trovati, eravamo io e due conoscenti. Devo dire, ho frequentato sempre persone lontane dalla mia età, diciamo anagrafica. Più grandi di te? Sì, decisamente. E io un po' come bamboccio, ecco, questo è forse un po' il mio vero battesimo. Cioè tu da ragazzetto con due adulti sei andato in giro per il mondo? Sì, in questo caso Guatemala, Belize, Honduras. Fatto un bel giro. È un bel giro, sì. Ma che cercavi in questo viaggio? Cioè, andare con questi due, qual era lo scopo? C'era un obiettivo? Se no eravate anche voi panca bestia, non lo so. No, tutt'altro, anzi, ottimi professionisti, oggi affermatissimi manager, insomma, persone veramente molto qualificate. No, quale la ricerca? Io, se ti dicessi non lo so, però con l'intenzione di tornare innamorato, quello sì, anche io mi sono innamorato ovviamente. Ma di chi ti sei innamorato in questi momenti? Ma di un ragazzo, sempre viaggiando su un pullman, c'era questa bellissima signorina, però ovviamente non si è saltato mia moglie, all'epoca non eravamo certo uniti, e così in una fase di ritiro noi siamo imbucati su questo pullman. Sempre imbucare però è una costante in tutti questi viaggi, essere imbucati da qualche parte, sì. Fa parte dell'avventura, sì, è un po' lo spirito di sopravvivenza, diciamo che è problem solving, noi italiani penso, con i portoghesi mi pare di capire. Vi siete infilati in un pullman e tu hai trovato questa bella donna. Sì, ovviamente mi ha aiutato quello che non ho mai ascoltato, però ottimo artista, Eros Ramazzotti, e questa canzone con il mio pessimo spagnolo, con un'interpretazione veramente ridicola, mi ha permesso di conoscere. Che canzone hai cantato, Eros Ramazzotti? Ma non mi ricordo quale fosse, almeno il titolo, neanche in italiano, però credo abbia fatto colpo, perché citando Eros Ramazzotti, insomma, ho trovato il consenso, soprattutto del parterre femminile, cioè bisogna giocarcela un po', bisogna vendere bene il prodotto, caro, se no... Vabbè, questa allora che è successo? Hai cantato la canzone, che t'ha detto? Ti amerò. No, io l'ho inseguita con la fantasia successivamente, non mi sono fidanzato. Ah, con la però fantasia? Vabbè, questa... allora, avventura di fantasia, quindi niente di concreto. In questo caso sì. Non c'è ciccia. Un esotismo da romanzo, ecco, però ecco, questa mia... ecco, quei racconti che mi fanno vicino a Garcia Marquez, proprio quell'attesa dell'amore ancora da compiersi. Vabbè, no? Allora magari ancora stai aspettando, perché sei tutto di fantasia. Dovrei controllare in agenda, mai. Qualche volta ti è andata male, che hai rischiato, che te sei vista brutta, è caduto, o sennò è sempre stato bei sogni da inseguire. Devo dire che l'ho vista brutta una volta in Brasile, mi sono fermato qualche mese in Brasile e ho conosciuto, in realtà, forse ti dicevo di essere stato scout, non ho grandi velleità, non so, di ambienti, contesti, e lì con l'aiuto di conoscenti ho frequentato un po' tutta, un tratto di costa, forse il nord-est, che potremmo dire la zona più povera di questa terra, oggi sofferentissima, e qui siamo attorno agli anni 2005 circa, e beh, io insomma ho subito qualche piccola aggressione, è stato aggredito, vabbè, che succede ai turisti, banalità, e invece ho avuto la, devo essere sincero, la facciata veramente fortuna di scampare a dei rischi peggiori, non so, conoscenze casuali, ero in viaggio da solo in quell'istante. Ho raccolto tante esperienze, però la paura di tante persone in viaggio da sole, l'entusiasmo magari di certi sognatori, devo dire che il disincanto mi ha accompagnato con occhi aperti, ecco, quello sì, la curiosità, la responsabilità, ecco, una tra le fortune che in una gita in barca da me evitata puntualmente, ecco, le barche che avrebbero dovuto ospitarci il giorno dopo avessero avuto, non so, un gravissimo incidente, questo in Venezuela, però un incidente, e una fosse piombata da una cascata, insomma. Insomma, ci vuole un po' di astuzia, Astuzia, vabbè, si chiama culo, è astuzia, nel senso che se c'eri sopra eri schiantato anche te magari. Poi diciamo la verità, chi ha vissuto e chi ha bevuto l'amaro calice dell'esistenza anche nella sua parte più limacciosa può essere maggiormente incline a avere una vita retta, piuttosto di chi avrà sempre il desiderio e la curiosità di capire qual è il lato oscuro della realtà, la parte oscura della forza. Ecco, tu hai conosciuto anche la parte oscura della forza, adesso puoi fare tranquillamente il tuo bel mestiere. Ti saluto, buon viaggio, io devo scendere, alla prossima, ciao. Ciao caro. Il treno va. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Una volta tanto mi capita di attraversare uno scompartimento pieno di gente, pieno, traboccante di gente, tutti avevano lo stesso fazzolettone azzurro al collo. Tutti sembravano sorridenti, beati, ispirati, quasi ci fosse una grazia che attraversasse quella folla applaudente di persone che già davano mano ai loro cestelli, tiravano fuori i panini, cosce di pollo, alucce di piccione e cominciavano il loro desinare, perché il viaggio per loro era molto più lungo di quello che sarebbe stato il mio. Andavano verso il confine, andavano in un pellegrinaggio, in un luogo sacro, erano felici, erano ispirati. Passo finalmente al mio scompartimento, mi siedo al posto a me assegnato e vedo davanti a me un signore che nulla a che fare con quella gente, eppure sembra da loro attratto. Perché è così incuriosito? Mi guarda, sembra quasi che voglia dirmi qualcosa, vuole raccontarmi qualcosa. Come posso fare a meno di frenare questo suo impeto spontaneo? Che viaggi ha fatto con sua moglie? Allora, ho fatto Santiago de Compostela, mia moglie l'ha fatta a piedi, ha fatto gli ultimi 100 chilometri. E lei dove stava? In bicicletta? Io con la macchina l'accompagnavo. A lei, io come religione la penso a modo mio, sono ateo, quello che. Vabbè, questo è un altro discorso. Per amore seguo anche la moglie nel pellegrinaggio, no? Sì, sì, mia moglie nel pellegrinaggio, sì. Poi siamo andati alla Madonna di Fatima. Sì, lei sempre a piedi, lei sempre in macchina? No, quando andavamo a Lourdes, vabbè, è molto bello. Invece il Cammino di Santiago, uno può partire anche da Roma, da Parigi, da Berlino. Arrivavano persone che facevano 100 km a piedi, pensionati, ci mettevano 2 mesi, 3 mesi. Sì, ho capito, proprio. Ma a Lourdes lei cosa faceva? Quando sua moglie stava a Lourdes e pregava, lei che faceva? Io lasciavo mia moglie alla partenza, perché ogni 5 km ci si poteva fermare, no? Mia moglie faceva 20 km al giorno. Infatti, perché gli ultimi 100 chilometri l'ha fatto in 5 giorni e io seguivo con la macchina, la lasciavo, io in 5 minuti avevo già fatto i 20 chilometri, però poi mi fermavo lì e aspettavo lei che arrivava, e arrivava dopo 2 ore, perché il cammino, insomma, io fermavo, parlavo con tutta questa gente che arrivava, quello era francese, quell'altro era inglese, e gli dicevo anche i motivi perché lo facevano, insomma, è stata un'esperienza bellissima. Sì, ma la sera sua moglie aveva i piedi con le vesciche e lei stava fresco, tranquillo. Mia moglie si voleva ritirare l'ultimo giorno perché, non le dico, la caviglia era diventata una cosa da non guardare. Era distrutta? Distrutta proprio, però la forza di volontà è raggiunto, perché se facevi questo percorso di 100 km a Santiago la chiesa ti avrebbe dato una pergamena scritta in latino, capito? E a che serviva? Questa pergamena a che serviva? Per assolvere tutti i peccati, l'indulgenza? Sì, diciamo di sì. Quindi sua moglie non aveva più peccati alla fine? Sì. Durante il viaggio dovevate stare naturalmente castamente come fratello e sorella, se no non valeva. Sì, ma infatti era così, come dice lei. Sua moglie sarà stata tutto il tempo a pregare, lei che non crede, che è ateo e tutto. Ci stava lo stesso, faceva finta, stava vicino a sua moglie. Lì, entravo, guardavo la chiesa e poi uscivo. E mi facevo la passeggiata, ci davamo l'appuntamento, ci vediamo tra 3 quarti d'ora, fra un'ora, tra 2 ore, quando c'era la processione. Vabbè, lei era l'accompagnatore. Arriviamo a Medjugorje. Arriviamo a Medjugorje 15 agosto. Mm. 15 agosto, una giornata come oggi a Roma. Ferragosto a Medjugorje, cioè questa è la proposta. Sì, perché mia moglie le vacanze ce l'aveva sempre dal 10 al 30 di Ferragosto. E niente, siamo arrivati là e sai che lei c'è questa collina piena di pietre qua e là, su e giù. Quando io l'ho vista, gli ho detto: senti, io non salgo, che venga fatto, aspetto giù al bar, però vai su te, no? E lei dice: beh, che sei arrivato fino a qua, insomma, alla fine mi ha convinto, io sono salito, ci ho messo 45 minuti, sai, perché non è difficoltoso salire la collina. E quando era in cima che ha fatto? Quando arrivi in cima, siccome mia moglie è amante anche di fotografie, perché c'ha 5.000 foto, e io mi sono messo a fare le fotografie a lei, alle persone che c'erano, chi camminava in ginocchio, chi si metteva la corona in testa, e poi arriva sulla collina, c'è soltanto la statua della Madonna, è un crocifisso, e non c'è più niente. E stavo là, a un certo punto, siccome dovevo poi scendere, la discesa più difficile della salita, gli ho detto a mia moglie: guarda, io comincio a scendere, mi fermo al bar sotto, quando sto per andare via ritorno indietro e dico fra me, ma sono arrivato fino a qua, insomma, cioè, che ne so, ci credo o non ci credo, vediamo un po', gli chiedo qualcosa alla Madonna. Ah, gliel'ha chiesto comunque, anche se non ci credeva, ci ha provato. Anche se non ci credo, ma siccome come Andreotti portava il corno rosso, dicevo, io lo porto in tasca. Non si sa mai. Non ci credo, non ci credo, lo porto. Sono andato, ho fatto questi passi, sono andato vicino alla statua e ho detto, siccome ho 2 figli col secondo matrimonio, che ancora non hanno figli, gli ho detto: fammi vivere la possibilità di vedere anzi i miei 2 nipoti. Sto per tornare indietro, improvvisamente mi giro e faccio una fotografia al sole. Oh, io sono bravo a fare le fotografie, mia moglie ce n'ha, cioè, al sole, ha bucato l'obiettivo, scusi, foto al sole, ha fotografato il sole. È una cretinata, no? Infatti, sì, non ero io, ero come se fossi comandato, cioè, io non ho sentito cose, perché io dico, vabbè, ho detto, boh, non lo so, sono sceso con la macchina fotografica, con la foto del sole dentro, ho cominciato a guardare le foto, sì. Sono arrivato all'ultima, ma io non ci pensavo più perché pensavo di aver fatto una cretinata, no? Sì. Che vado a fare la fotografia al sole. E invece poi mi è detto la fotografia, esce fuori il sole in pieno. Sul lato destro c'è come un puntino che luccica. Ma il sole luccica sempre, è normale che il sole luccichi. No, c'è il sole. Sì. La fotografia nel centro c'è il sole. Una sopra, foto, se tutto alto, tutta... Io ce l'ho le fotografie. E che si vede in alto? In alto c'è come un puntino, come un puntino luminoso. Io all'alto del sole. Levo il sole dalla foto, levo il sole e ingrandisco il puntino. Ah. E mi esce la sagoma, cioè non il viso, non si vede il viso della Madonna, ma la sagoma della Madonna con le braccia giù, col coso che... No, insomma, la sagoma della Madonna. Cioè in questa foto ingrandito il puntino luminoso accanto al sole, sì, viene fuori, sì, che era una Madonna... in cielo. Ora io dico, se per caso il cielo era chiarissimo, poteva venire, non so, la forma di un albero, la forma di un animale, la forma, e tanto che ne so, bene. Le nuvole fanno queste cose. E tanto bene. Proprio lì in quel punto è uscita fuori la sagoma della Madonna. Allora quella cosa mi ha colpito. Ma quanto l'ha ingrandita? No, la fotografia era 13-18 e poi l'ho fatta 13-18, ce l'ho. Quello che si vede è grande un centimetro forse. E com'era vestita? Vestita proprio normale la Madonna, col mantello, così? Sì, non il viso, non si vede. Si vede la sagoma della Madonna col mantello. Con le braccia aperte, classica. Poi lei pensi, a un certo punto, quando è scesa mia moglie, gliel'ho fatta vedere, lei si è messa a piangere, dice, ma questa è la Madonna, Ci siamo fermati in un negozio. La ragazza del negozio è andata a chiamare tutte le ragazze, se l'ha formato tutto, cioè io gli ho detto, senti, andiamocene via, però che succede qua? Tutti dicevano la Madonna, facevano così, no? Chiaro, siamo andati via. Međugorje, che devono dire, mica possono dire... No, lo capisco, però c'era questa fotografia che io avevo fatto vedere alla commessa, questa qua c'è rimasta, è scappata, io ho detto, ma dove va? Ma la Madonna è normale che appaia a Međugorje, è il posto. Che appare il Međugorje della Madonna. Il posto per me, è quello. Io ho fatto questa fotografia e ce l'ho. Però io sempre dubbio. Cosa fa? Ne ha fatto un quadro, l'ha incorniciata, cosa ne ha fatto? No, ho tutte le fotografie messe da parte. Ma non ha pensato, a farci un quadretto, scusa, è una foto miracolosa. No, perché poi abbiamo divorziato con mia moglie. E quindi la Madonna alla fine gliel'ha fatta una grazia, la Madonna. L'ha liberata da questa moglie che la portava ai pellegrinaggi. Una grazia gliel'ha fatta. Il giorno dopo poi mia moglie si è voluta ritornare a Međugorje. Che io ho detto, siccome noi eravamo nella capitale lì della Croazia, e cioè, dovevamo fare 140 km andare, 180, gli ho detto, ma dai, altri 280 km. Sì, di questo fatto della Madonna. Siamo andati là, lei l'ho lasciata salire nella collina da sola, e io sono andato dietro la chiesa, sulla panchina, aspettare. Quando è tornata, abbiamo comprato due panini. Mentre mangiavamo i panini, io mi sono messo a piangere in un modo che non riuscivo a fermarmi. Mia moglie si è spaventata, voleva chiamare qualcuno, e piangevo in un modo proprio, che ne so, anch'io non capivo perché io non ho pianto, ma ho pianto solo quando è morta mia madre, che avevo 21 anni, è morta dando alla luce mia sorella, pensi un po'. Dopo quell'anno, quel giorno io non ho più pianto in vita mia. E quel giorno invece piangeva? Quel giorno a Međugorje era un disastro. E qui com'è andata a finire poi? È finire che questi due fatti, la fotografia, questo pianto che mi è venuto a me, io poi parlando con tutti i preti che ho incontrato, e tutti mi hanno detto, come è una cosa bellissima quello che racconti, tu sei ato, non credi? Questo è un primo messaggio. È un segno che ti dà. Riceverai altri, però non lo raccontare, perché se lo racconti la gente non ci crede, no, io ci credo. Dice che è un fotomontaggio, dice che è una cosa. Invece io è vera. Ho detto, ma invece io voglio raccontarlo, perché questo fatto è successo veramente. C'era mia moglie, che non è una cretina, non è una pazza. Mia moglie ha avuto una carriera che non c'è donna in Italia che non ha avuto la carriera che ha avuto lei. Mi piacerebbe, se fosse possibile, avere la foto, vederla meno. Non perché non ci creda, figuriamoci. Mi ha talmente colpito e incuriosito che se lei volesse un giorno mandarcela. Se manda la foto, così la prossima volta che la incontro, con la foto in mano ragioniamo, partiamo dalla foto, poi parliamo della Libia, dei viaggi, delle altre mogli, del gioco, del vizio, di tutte le altre cose. Adesso, oggi, fermiamoci alla Madonna. Ci basta. Alla prossima. Il treno va. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Nello spazio dell'audiolettera, devo dire questa volta, non si parla di vicende amorose, per fortuna. Non ne potevo più, rischio il diabete per la melassa amorosa che mi propinate ogni settimana. No, è una vicenda che ha come sottofondo una storia amorosa, ma è vista non dagli occhi del protagonista, ma dagli occhi di un padre. Ciao Gianluca, ti scrivo in qualità di padre. Più che di consigli amorosi, vorrei un parere da te su una cosa che riguarda mia figlia. Lei ha 18 anni, fa l'ultimo anno di liceo. Io ho divorziato da mia moglie un anno fa. Puoi forse immaginare quanto sia stato complicato gestire la fase della separazione ed evitare che si innescassero le solite terribili dinamiche conflittuali in cui a rimetterci sono i figli. Penso che tutto sommato anche la mia ex abbia capito che non conveniva farci la guerra. Così abbiamo deciso di comune accordo di lasciare madre e figlia nel nostro appartamento, che poi in realtà sarebbe mio. E io mi sono adattato ad andare in più modesti mini appartamenti in affitto, compatibilmente con le mie finanze. Mia figlia la vedo soprattutto nel weekend. Quando cominciava a sembrare che la fase peggiore del divorzio, anche per mia figlia, fosse ormai passata, qualcosa invece mi ha insospettito. Quando la incontravo, la vedevo molto sfuggente, e sua madre mi ha dato conferma che anche lei aveva l'impressione che nostra figlia fosse in difficoltà e non volesse dircelo. Ha cominciato a studiare di meno. Quando la madre le ha chiesto se avesse qualche problema, lei ha negato. In effetti non riuscivamo a capire che cosa non andasse in lei. Esce anche 2 o 3 volte a settimana con gli amici, fa tardi, come tutte le ragazze della sua età, ma nemmeno troppo. La mia ex moglie lavora e lei di giorno sta spesso da sola a casa. Alcune volte, dopo telefonate o messaggi al telefonino, appare triste. Una sera sembrava proprio disperata. Passa ore chiusa in camera. Quando lei è con me parla delle solite cose, ma si vede che ha tutt'altro per la testa. E a me non va di fare l'interrogatorio. Abbiamo escluso problemi di droghe o simili, ma abbiamo intuito da alcuni segnali che si tratta di una questione di cuore. Ma perché rifiutare di dare anche un solo vago accenno? Lei ha sempre raccontato, anche sinteticamente, con chi stava, e noi non abbiamo mai voluto saperne di più. Questa volta, alla fine, di comune accordo, abbiamo preso una decisione risolutiva. Ci siamo rivolti a un investigatore privato. Questa volta cercherò di essere serio, di parlare anche io da padre e non soltanto da sconsiderato consigliere di dissoluzione amorosa. Certo è che quando un figlio mostra un atteggiamento taciturno, che è normale nell'adolescenza prolungata, che un figlio di 18 anni è ancora un bambino adolescente, anche se per legge e per diritto è maggiorenne nel pieno delle sue facoltà e delle sue naturalmente diritti e doveri. Beh, quando la ragazza è particolarmente sfuggente, devo dire che probabilmente viene in mente ci possa essere qualcosa di difficilmente raccontabile ai genitori, qualcosa di indicibile, qualcosa che è come un rovello che ti scava dentro, ma non hai ancora la possibilità di vivere appieno quella che è la mestizia o il dolore o l'oppressione che ti provoca quel rovello. Perché? Perché vivi in famiglia e il sottile baluardo di una porta di compensato, che è il limite del sancta sanctorum dell'inviolabile cameretta di un adolescente, probabilmente non è sufficiente a tenere dentro quello che non si riesce a tenere dentro, e quindi il nostro amico è andato avanti. Tempo una settimana, abbiamo avuto l'amaro responso. Mia figlia, 18enne, vede e frequenta un uomo di 48 anni. Si vedono di giorno, a volte in auto, a volte a casa da lui. 48 anni vuol dire che lui ha 30 anni in più di mia figlia. Non ho avuto il coraggio di vedere le foto scattate dall'investigatore. Io non so dove lei l'abbia conosciuto, ma ora ho nome e cognome di questo individuo. E so che è anche sposato. Un dettaglio che alla fine conta davvero poco per me. La prima cosa che vorrei fare è andare da questo tipo e mettergli le mani addosso. Ma temo davvero che potrei perdere il controllo. Soprattutto poi non saprei cosa direbbe lui a mia figlia. Provare a parlare esplicitamente a mia figlia dicendole che so tutto È un'arma a doppio taglio. Se lei scoprisse o intuisse che l'abbiamo fatta spiare, potrebbe davvero odiarci per anni. Del resto, non possiamo non fare niente. Io non so questo tipo quali balle abbia raccontato a mia figlia per sedurla in questo modo. Non mi fraintendere, qui non si tratta della solita gelosia di un padre nei confronti della figlia adorata. Qui c'è un signore che si sta approfittando di una ragazza e la sta manipolando a suo piacere. Beh, certo è che la situazione è delicata. La ragazza è maggiorenne, anche se tu la vedi come una bambina, anche se ha gli effetti probabilmente alla maturità di una bambina, è maggiorenne e può fare quello che vuole della sua vita, dei suoi sentimenti, della sua possibilità di accoppiarsi con persone. Certo è che un uomo di 48 anni che sta con una 18enne, in effetti infame lo è. Lo è sicuramente, perché nel momento in cui parte un'attrazione o un meccanismo seduttivo, un uomo di 48 anni deve pensarci un attimo prima di arrivare in intimità con una 18enne. Ma è altra cosa, ma dovrebbe essere l'istinto che lo suggerisce lasciar perdere. È chiaro che una 18enne può trovare fascino, attrazione, sicurezza, compensazione di una paternità che probabilmente il signore che mi scrive non è riuscito a esprimere nella maniera che voleva questa ragazza. È chiaro sì, ma lo stato delle cose è questo. Lei sta col 48enne. Cosa fare? Andare a parlare da uomo a uomo con il 48enne e dirgli lascia stare mia figlia? Sì, potrebbe funzionare. Potrebbe essere che lui si spaventa, potrebbe essere che lui sia sposato, che abbia un'altra storia e magari preferisca che non venga fuori questa sua storia. Non certo edificante, ma certo, in nome dell'amore si può fare tutto. L'amore, la passione non ha età, non guarda limiti. Abbiamo esempi illustri di uomini e donne che hanno compagni o compagne con grandi differenze d'età. Ma quando ti capita in famiglia è molto meno facile essere aperti, essere liberali. Uno pensa all'avvenire della figlia, al suo futuro compromesso, all'imprinting amatorio che possa avere un uomo tanto più grande di lei e quale futuro potrebbe avere. Ma le cose sono due: o ti muovi in maniera drastica, visto che hai già incaricato un investigatore privato, quindi hai deciso di comunque prendere qualche posizione. Hai le prove che tua figlia frequenta un uomo più grande, non potevi farlo, non potresti farlo, non è minorenne, non è tua moglie, non avevi nessun diritto di farlo, quindi non potrai mai dire a tua figlia ti ho fatto seguire, ti ho fatto vigilare. Puoi recuperare un tuo ruolo di padre e vedere se lei si confida con te, ti spiega qual è il suo problema, forse magari è meno profonda, meno grave, meno indissolubile quest'unione di quello che tu pensi, magari anche per lei è un momento di esperienza, ha voluto assaggiare un rapporto con un uomo più grande di lei e magari sarà lei si renderà conto che in fondo avere un uomo così tanto più grande di lei la mette in una condizione di disagio sociale, non può uscire con i suoi coetanei, ci esce difficilmente. Comunque sia, esiste un pregiudizio sociale che pesa, è inutile far finta che non ci sia. Affrontarlo con coraggio assieme con questa persona vuol dire con questa persona voler costruire qualcosa. Se è semplicemente così un'avventura, una passione, un amore carnale e basta, beh, lascia che si consumi come si consumano tutti gli amori carnali, tutte le passioni e tutte le avventure, e non fartene un problema.